e nella notte nera come il nulla, a un tratto, col fragor d'arduo dirupo che frana, il tuono rimbombò di schianto, rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo e tacque, e poi rimareggiò rinfranto e poi vanì. Soave allora un canto s'udì di madre. Il moto di una culla. Il tuono di Giovanni Pascoli, 1903, pubblico dominio, dalla raccolta Mirice. Voce di Annibale Covini Gerolamo, Creative Commons 4.0 International, BYNC ND.